Alessandre. Quello che vi porterò io è l'esperienza fatta, un'esperienza di sensibilizzazione che ha coinvolto il personale infermieristico e medico dell'azienda ospedaliera di Padova su un tema decisamente importante, che è tema legato all'acquisizione del consenso al lato sanitario. E in particolare mi sono occupata del processo di comunicazione antecedente la richiesta al lato sanitario e mi sono occupata di formare il personale, dicevo, infermieristico e medico a quei processi di comunicazione necessari per creare una relazione di fiducia con il paziente per poi riuscire ad arrivare al lato sanitario. E l'obiettivo che ci eravamo posti è far riflettere sulle fasi del processo comunicativo e informativo antecedente la richiesta del consenso al lato sanitario. E in particolare ci siamo occupati di due approcci fondamentali nel processo comunicativo, che sono gli approcci centrati, il colloquio centrato sul paziente e il processo decisionale condiviso nel momento in cui viene richiesto al paziente di dare il proprio consenso al lato sanitario. Quindi, quando utilizzo la parola processo, intendo proprio un processo di natura logica, sequenziale e dei momenti cronologici, e pertanto uscire un po' dalla logica di vedere il consenso come un evento da riportare all'interno della cartella clinica, e quindi creare un contesto e un piano comunicativo tale per cui il paziente poi riesca a prendere una decisione in merito in termini proprio liberi, ma anche di coscienza, perché ha veramente compreso quello che poi succederà in termini diagnostici e terapeutici. Quindi l'obiettivo del percorso formativo era quello, l'obiettivo principale era far riflettere proprio sul processo comunicativo, e però altrettanto migliorare, sedimentare tutte quelle che sono le competenze comunicativo-relazionali necessarie per una buona relazione col paziente all'interno proprio della propria professione. Abbiamo analizzato quali competenze assieme al personale: l'ascolto, l'accoglienza, ancora abbiamo cercato di creare la consapevolezza che ci sono diversi canali di comunicazione, verbali sicuramente, informativi sicuramente, ma anche non verbali e paraverbali, che spesso in qualche modo vanno a influenzare la relazione con il paziente stesso. E ancora l'obiettivo era quello di fare delle riflessioni sulla tecnica delle domande per entrare sempre di più in relazione con il paziente e coinvolgere il paziente in una fase poi finale, in una scelta decisionale possibilmente condivisa. Per fare questo, allora, questo gli obiettivi che ci siamo posti sono obiettivi estremamente ambiziosi, molto importanti, perché la letteratura comunque ci dimostra che laddove c'è una buona relazione tra il curante e il paziente c'è un miglioramento dell'adesione al trattamento, aumenta la soddisfazione del paziente, incide sullo stato di salute, riduce anche eventuali richieste di ulteriori visite e denunce per malpractice. Ma forse formare alle competenze comunicativo-relazionali è più importante dal punto di vista dell'operatore sanitario, proprio perché va a aumentarne, che cosa? È il primo punto, la soddisfazione e la motivazione per il proprio lavoro, riduce tutti quei fattori legati a delle problematiche, delle patologie correlate al lavoro, tra cui appunto l'insoddisfazione, la demotivazione, per arrivare a di stress psicologico e il burnout. Quindi aumentare le competenze comunicative del curante un effetto decisamente importante anche proprio sul curante stesso. L'esperienza che abbiamo condotto ha coinvolto però esclusivamente il comparto, il personale un po' più attento, un po' più sensibile al tema del consenso e della comunicazione, e pertanto si sono presentati, hanno aderito ai nostri incontri una percentuale molto alta di infermieri. Il personale medico è stato in percentuale abbastanza bassa, quindi ha aderito poco, si è dimostrato forse poco sensibile al tema. Un tema che però è fondamentale, soprattutto per andare a richiedere l'adesione del paziente. E per fare questo noi abbiamo utilizzato un metodo. Il tempo a nostra disposizione era davvero molto poco, perché abbiamo avuto tre ore e mezzo per sviluppare o sedimentare o rinforzare delle competenze comunicativo-relazionali. Il tempo a disposizione era decisamente poco. E per fare questo abbiamo utilizzato una metodologia molto interattiva, per far entrare molto velocemente il personale, i discenti che erano in aula con noi nella relazione con il paziente. E come abbiamo fatto? Abbiamo sicuramente introdotto degli approcci teorici legati, come vi dicevo prima, alla comunicazione medico-paziente, all'intervista centrata su quello che è il vissuto di malattia del paziente e il processo per arrivare a una decisione condivisa. Quindi abbiamo dato un pacchetto di conoscenze, ma altrettanto, cosa fondamentale per lui, era andare a entrare nel saper fare, entrare nella discussione in modo molto veloce e molto attivo. E per cui, dopo aver dato la parte più teorica, abbiamo proposto la visione di alcuni filmati legati proprio ai nostri temi, e ulteriormente abbiamo proposto degli strumenti per la misura delle skill comunicative del curante. Skill comunicative legate proprio a quello che si diceva prima, cioè sviluppare le capacità di indagare il vissuto di malattia del paziente e il processo decisionale condiviso. Abbiamo utilizzato filmati abbastanza neutri da un punto di vista emotivo per quanto riguarda i partecipanti, nel senso che sono stati presi dei film tratti dalla filmografia ufficiale, dei videoclip tratti da film che dipingevano, ritraevano, narravano la comunicazione o il vissuto di malattia da parte del paziente. Abbiamo scelto in particolare due film che avevano l'obiettivo di raccontare il vissuto di malattia, ma prevalentemente dal punto di vista del paziente, in modo tale da vedere tutto l'approccio comunicativo da un altro punto di vista. I film che sono stati scelti sono stati Un medico, un uomo e Wit, la forza della mente, che narrano in entrambi i casi malattie legate al tumore. E Wit in particolare è una narrazione molto particolare, perché la paziente parla direttamente allo spettatore e quindi il vissuto di malattia erompe, o comunque viene fuori in modo molto imponente e dirompente. E sono state utilizzate, come dicevo prima, anche delle scale di valutazione dei comportamenti o delle skills comunicative necessarie per riuscire ad arrivare a creare una buona relazione comunicativa con il paziente. Ovviamente tutto questo è stato fatto all'interno della cornice di riferimento e che l'obiettivo nostro era quello di suscitare la sensibilizzazione di tutti gli operatori al processo comunicativo e relazionale e informativo antecedente la richiesta del consenso all'atto sanitario. E per fare, per richiamare e per sviluppare questa sensibilizzazione abbiamo richiamato i momenti in ordine logico e cronologico del processo comunicativo proposti anche dall'ARS del Veneto con il quaderno 13. Gli eventi comunicativi in questo caso indicano proprio un modus operandi, comunicare informazioni di rilevanza terapeutica, verificare la comprensione della comunicazione e la decisione infine della persona assistita in merito. Noi però, da bravi psicologi, abbiamo aggiunto una voce al processo comunicativo necessario e quindi raccogliere informazioni e indagare il vissuto di malattia, entrare in relazione col paziente prima di fornire una comunicazione di natura informativa. È un passaggio per noi decisamente rilevante perché i punti dal 2 al 4 implicano che ci sia già stato un incontro con il paziente, implica che ci sia già una conoscenza di quello che è il bagaglio cognitivo ed emotivo del paziente. Per noi però è altrettanto fondamentale sviluppare quelle competenze che spesso vengono un po' tralasciate. E pertanto nel processo comunicativo informativo bisogna come primo luogo creare una relazione, una condivisione, una comprensione di quello che è la malattia, non solo intesa come malattia organica che il curante ovviamente indaga in modo molto preciso e puntuale, ma entrare in quello che invece è il vissuto di malattia e quindi che cosa rappresenta per quel paziente quella determinata malattia, soprattutto laddove le malattie iniziano a essere malattie di natura cronica. Allora, nel momento in cui sarò stato in grado di indagare quel vissuto di malattia, quei costrutti cognitivi ed emotivi del paziente che il paziente ha in quel momento, allora sarò in grado sicuramente di trasmettere informazioni di carattere di rilevanza diagnostica e terapeutica. Per fare questo noi, come vi dicevo, abbiamo abbracciato la prospettiva della comunicazione centrata sul paziente e abbiamo dato degli strumenti per riuscire a sviluppare quelle skills necessarie per andare a indagare sul vissuto di malattia. Tra l'altro, qui per me è una cosa molto importante, in italiano spesso utilizziamo il termine malattia come sinonimo se intendiamo la malattia organica o vissuto di malattia. In inglese invece l'inglese ci supporta con due terminologie completamente diverse e si usa il termine disease per indicare la malattia più di natura organica, quindi tutto quello che viene indagato dal paziente, dal medico, scusate, e si usa invece il termine illness per indicare il vissuto di malattia e quindi quanto e come sta percependo la malattia quel tipo di paziente. Questo non è secondario ed è importante proprio nell'approccio che, nel processo che ci porterà all'acquisizione del consenso, riuscire a capire che cosa significa quel vissuto di malattia per quel paziente. È un concetto estremamente relazionale perché il paziente, il malato, porta vissuti di malattia a volte diverse in funzione del curante, in funzione della percezione che il curante abbia o non abbia tempo o abbia o non abbia accolto il paziente come persona. Se il paziente porta davvero diversi vissuti di malattia tra i vari curanti. Per fare questo noi cosa abbiamo fatto per sviluppare questa capacità di andare a indagare l'agenda del paziente in un'aula di formazione, che non è semplice trasmettere dei contenuti che sono più che altro legati alle competenze relazionali, allora abbiamo fatto vedere, abbiamo presentato degli spezzoni tratti dal primo film di cui vi accennavo prima, quindi Un medico, un uomo, e abbiamo fatto vedere diverse prime consultazioni in un caso con il medico di base, in un secondo caso con uno specialista. La narrazione del film racconta che il paziente, che in realtà è un medico, un cardiochirurgo di buona fama e molto di gran successo, non molto attento peraltro alle relazioni umane, si ammala di un tumore alla laringe. E quindi una prima consultazione di base e poi una seconda consultazione di base. Con questo materiale stimolo noi poi abbiamo cercato di fare delle riflessioni su quello che è una buona pratica per andare a indagare l'agenda del paziente, che è ricca di sentimenti, che può essere ricca di idee, di interpretazioni sull'eziologia di quella malattia, è ricca anche di aspettative e desideri, di cosa ci si aspetta dall'esito di quella particolare visita medica, ed è poi l'agenda in queste sue tre componenti nasce dal contesto socioculturale della persona. E pertanto, proprio per far entrare molto velocemente in relazione i discenti, i partecipanti al corso, abbiamo proiettato questi film con questo strumento tratto proprio dalla letteratura di Moia e Vegni. E proprio perché prima, come dicevo, di entrare, di dare il passaggio di informazioni, è importante in qualche modo collocarsi sul processo cognitivo ed emotivo del paziente. Il passo successivo del processo che porta all'atto sanitario è quello di sollecitare una scelta da parte del paziente, una scelta che in questo caso sempre tratto dai quaderni dell'ARS, lo cito, l'obiettivo di questo processo comunicativo e informativo è quello di creare con il paziente le condizioni per una scelta decisionale condivisa e una sua partecipazione consapevole agli atti sanitari. Chiaramente, per fare questo, allora, la letteratura e voi molto probabilmente e gli studi dimostrano che il paziente attualmente è sempre più informato, sempre più desideroso di conoscere tutto sulla propria diagnosi, ma forse non è altrettanto desideroso di prendere decisioni condivise, nel senso che spesso al momento della richiesta, all'atto decisionale, ci si affida ancora a una comunicazione di natura paternalistica, quindi il paziente spesso si affida ancora alla decisione del curante. Perché invece avvenga il processo, l'acquisizione del consenso in modo libero ed informato, allora si deve sì invece sollecitare il paziente a prendere delle decisioni abbastanza autonome. Pertanto, se nella pratica clinica e la letteratura anche nazionale ci dice che spessissimo nell'equipe vengono utilizzati, viene utilizzata l'intervista centrata sul vissuto di malattia del paziente, quindi viene indagata l'agenda del paziente, poco o forse poco viene fatto in termini di sollecitare il paziente a prendere delle decisioni condivise, nel senso che è sempre un aspetto relazionale. È ovvio che il medico o il curante continua ad avere un potere, il potere della conoscenza, e quindi il medico, c'è una distonia, non c'è una relazione simmetrica, però in termini relazionali invece si deve e si ha il dovere di riuscire a dare un'informazione più completa, esaustiva possibile, perché il paziente prende una decisione in modo completamente autonomo. E quindi il secondo approccio che abbiamo utilizzato è il processo decisionale, quindi abbiamo cercato di dare, di creare una maggiore sensibilizzazione al comparto degli infermieri e dei medici, il processo decisionale condiviso per promuovere il coinvolgimento del paziente, soprattutto in alcune fasi particolarmente delicate, e quindi quando bisogna prendere delle decisioni. E per coinvolgimento del paziente si intende la capacità del paziente di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei piani riguardanti la sua stessa vita. Da alcune ricerche anche in campo italiano emerge che questa diffusione del processo decisionale condiviso andrebbe in qualche modo incrementato. La ricerca sia internazionale sia nazionale ci dice che ancora il paziente viene poco coinvolto in questo processo. Noi, per formare il comparto e il personale sanitario, abbiamo deciso di adottare uno strumento, in particolare lo strumento Option, che è uno strumento stilato in lingua inglese e tradotto dall'equipe di psicologia medica dell'Università di Verona, ed è una scala a 12 item che va a misurare il grado di coinvolgimento in cui gli operatori sanitari riescono a coinvolgere il paziente nelle decisioni all'atto sanitario. Option è un acronimo che significa Observing Patient Involvement, e quindi proprio gli item vanno a misurare le abilità del curante di chiarire se c'è un problema e chiarire che il problema richiede di un coinvolgimento del paziente. Valutare il ruolo che il paziente desidera avere nelle decisioni e nelle modalità in cui preferisce essere informato, elencare e descrivere in maniera chiara le diverse opzioni terapeutiche in termini di equità. Chiaramente anche il non fare niente è un'opzione terapeutica. Valutare quanto e cosa il paziente ha capito delle informazioni, ancora offrire esplicitamente la possibilità di porre delle domande, esplorare le idee e le preoccupazioni del paziente, quindi ritorna all'agenda del paziente, e quanto il curante riesce a esplicitare il bisogno di prendere una decisione in merito alla proprio iter. Questa è una scala, dicevo, che va a misurare l'abilità del curante di quanto riesce a prendere, a quanto riesce a coinvolgere il paziente, e viene dato un valore ad ogni abilità, questi 12 item, un valore mediante una scala Likert che va da 0 a 4 punti, dove per 0 indica il comportamento che non si manifesta, quindi il curante non coinvolge il paziente, e dove 4 indica un comportamento, un'abilità manifestata in termini di eccellenza. Molto velocemente, il medico, l'item 1, focalizza l'attenzione sul problema specifico che richiede un processo decisionale, dare un punteggio 1 vuol dire che il medico non coinvolge poco. Come l'abbiamo utilizzato noi? Noi l'abbiamo utilizzato nello stesso modo dello strumento precedente, che cercava di indagare l'agenda del paziente. In questo caso noi abbiamo fatto una scelta di metodo, abbiamo proiettato la fase iniziale, la rappresentazione iniziale del film La forza della mente, rappresentazione iniziale della comunicazione medico-paziente, che vede la sequenza logica del processo di comunicazione per arrivare al consenso. E quindi vede in questo script filmico c'è il medico comunica una diagnosi, il medico in qualche modo il medico propone una terapia, e poi come ultima istanza il medico chiede un'adesione. tutto sequenziale, ovviamente senza lasciare tempo alla paziente di prendere una decisione. Per chi non conosce questa rappresentazione di questo di questo processo di comunicazione, il medico, diciamo, non fa molte delle cose che invece sono descritte e auspicate in un processo decisionale condiviso. Noi abbiamo fatto vedere questo filmato ai partecipanti e assieme a loro abbiamo analizzato i singoli item per andare a sviluppare quelle competenze comunicative. E infine abbiamo visto un altro script di un dialogo con l'infermiera, è sempre la paziente che dialoga con l'infermiera su decisioni di fine vita, e in questo caso invece il dialogo e il processo di comunicazione segue esattamente diciamo gli item o la checklist della scala option, e quindi l'infermiera prova a coinvolgere la paziente e chiede la sua opinione in merito a cosa deve succedere nel caso in cui smettesse di vivere, e quindi in questo caso sono stati presentati due filmati con comportamenti e coinvolgimenti del paziente in modo positivo nel secondo caso e un po' meno nel primo caso. Noi abbiamo comunque testato questa scala, la scala option, l'abbiamo testata noi, l'Università di Padova e l'Università di Verona, nelle sue capacità di monitorare lo stato di consapevolezza e di conoscenza sui temi del processo decisionale condiviso. Abbiamo cercato di capire se questa scala, dopo aver visto il filmato, poteva in qualche modo discriminare tra partecipanti esperti del processo decisionale condiviso rispetto a partecipanti non esperti. E ancora abbiamo visto che discrimina, abbiamo cercato di capire se discrimina anche tra diversi livelli di sensibilizzazione ai temi della comunicazione relazionale. L'abbiamo fatto come? L'abbiamo fatto prendendo quattro gruppi di soggetti, di partecipanti esperti e non esperti. Partecipanti esperti erano medici e infermieri e studenti dell'ultimo anno delle scuole di medicina o di corsi avanzati di psicologia clinica. I non esperti erano studenti della facoltà di psicologia. La scala dimostra una buona capacità di discriminare, nel senso che dopo aver visto il filmato e aver risposto alla scala option e quindi aver giudicato l'operato del medico in quel processo comunicativo che richiedeva coinvolgimento del paziente all'accettazione dell'atto sanitario, i rispondenti sono stati più severi laddove c'era una grossa o comunque una maggiore competenza comunicativa rispetto ai rispondenti non esperti e rispetto al genere sessuale, e quindi i partecipanti di genere femminile si sono dimostrate più severe rispetto a partecipanti di genere maschile. Questo anche a conferma di un'ipotesi già presente in letteratura, laddove la donna entra maggiormente in empatia con il vissuto di malattia del paziente e quindi giudica in modo molto più severo l'operato dell'operatore del medico in questo caso. Quali sono le implicazioni per il futuro di questo studio che abbiamo condotto? Allora, sicuramente lo strumento option può essere un buon strumento per andare a formare alle competenze relazionali il personale, sia infermieristico sia medico, però forse bisogna farlo in modo un po' più frequente, nel senso che lo strumento option possiamo utilizzarlo per discriminare o comunque 2 in qualche modo dividere i partecipanti tra coloro che sono più esperti e meno esperti e costruire dei pacchetti formativi o degli incontri formativi in funzione dei diversi livelli di sensibilizzazione e di coinvolgimento del paziente. E quindi questo pertanto in questo modo può essere utilizzato. Un altro modo, e poi concludo, ridò segnale a Italo De Sandra che sto per concludere, un altro modo in cui può essere utilizzato lo strumento Option è prendere gli item dello strumento e utilizzarli nella propria pratica quotidiana clinica come checklist di un processo comunicativo e quindi come un'autoanalisi di avvenuto processo comunicativo negli step che abbiamo analizzato, e quindi nel processo relazionale, nel processo informativo e nel processo poi di richiesta di una condivisione all'atto sanitario. Sicuramente per formare queste competenze che sono importanti non può bastare una lezione plenaria con degli strumenti filmici presi e costruiti in modo un po' asettico, perché chiaramente gli strumenti che abbiamo utilizzato noi in videoclip li abbiamo presi con una narrazione che spesso andava a stigmatizzare dei comportamenti del medico. Sarebbe carino poter utilizzare questo strumento come autoanalisi o come strumento di lavoro delle equipe sanitarie per vedere, darsi dei feedback su tutto quello che è il coinvolgimento del paziente. E queste competenze che dovrebbero essere sviluppate anche attraverso simulazioni e soprattutto dovrebbero essere sviluppate in modo continuativo a partire da dagli esami, da inserire queste competenze negli esami proprio degli studenti di medicina, perché sono competenze che devono essere allenate quotidianamente e costantemente in tutto il percorso di un operatore sanitario, dalla formazione ma anche nella pratica quotidiana. Ho concluso, grazie. Grazie. Mi riesce di creare questa ansia da prestazione ai colleghi che parlano, ma come ci ha ripetutamente detto stamattina la dottoressa Chiozza, il tempo è veramente una risorsa che dobbiamo valorizzare il più possibile. Questa raccomandazione vale anche per l'amico Salvatore D'Amico. Sarò ancora più inflessibile. 39 di acqua e 30 minuti, uno che non ha il dono della sintesi, ovviamente 45 a noi. Alessandro, buon pomeriggio. Qualcuno che sono comunicatori. Però ci proviamo. Cercherò di stupirti con gli effetti speciali, come diceva. Non è vero. Questo è un quadro che io uso normalmente all'inizio delle mie lezioni nel corso della magistrale di sociologia. È un quadro che si intitola Promenade di Marc Chagall, che credo illustri bene lo stile con cui questo gruppo di lavoro ha tentato di realizzare questo esperimento di dare vita a una ricercazione di stile etnografico, di tipo etnografico e di stile dialogico. Come vedete il mio nome è messo piccolo, lo scoprirete più avanti, perché questo lavoro è stato fatto da 8 persone ed è importante che si tenga presente che un lavoro è fatto da 8 persone. Che cosa sia lo stile dialogico? Ovviamente non entrerò in merito, dirò solo qualche cosina qui e là. È un termine che sta tornando ad avere successo, ma ha una lunghissima tradizione. Farò per tutti due nomi: Georg Simmel, che è un sociologo dello secolo passato, e Martin Buber come punti di riferimento teorici, per chi volesse poi approfondire la cosa. Perché appunto dietro a questo termine in realtà ci sono una infinità di declinazione possibile. Si vede, c'è di essere a far funzionare questo martingale. Ecco. Spento subito. Ecco là. Allora, quando il comitato etico, meglio, il gruppo che lavorava sul consenso, messo in piedi al comitato etico, ha convocato me e Luciano Arturi per discutere di che cosa si potesse fare intorno al tema della comunicazione, in particolare intorno al tema del consenso, io mi sono trovato a proporre alcune piste. Un po' strano, e d'altronde sono professore universitario, credo che quando viene coinvolto il professore universitario debba esserci qualcosa di sperimentale, di innovativo, perché se c'è un'attività di ricerca con strumentazioni consolidate, credo che debbano essere interpellate altre figure, altre società che hanno già sedimentato un loro schema, una loro modalità. Nel nostro caso abbiamo tentato di esplorare territori nuovi, territori che, come diceva Vito Alessandro prima, spesso non sono conosciuti. Cosa vuol dire fare etnografia? È una cosa abbastanza poco conosciuta, per esempio nell'ambito medico, nell'ambito sanitario italiano, mentre all'estero alcune cose sono state fatte. Quindi il primo intento sul quale abbiamo cercato di muoverci è un intento di dare vita a una vera e propria ricerca conoscitiva, cioè sapere che cosa avviene nei reparti, fare una fotografia come ha utilizzato, come è stato proposto nelle settimane passate da qualcuno, o fare un film, se vuoi, della situazione che c'è, per conoscere, per portare in rilievo cosa avviene nelle situazioni in cui si dà vita a quel processo particolare che è quello che tradizionalmente viene chiamato consenso informato e che invece giustamente il gruppo di lavoro ha deciso di chiamare soltanto consenso. Quindi il primo intento era una ricerca conoscitiva, conoscitiva di base, con una prospettiva di tipo dialogico e quindi che non mette al centro soltanto le ipotesi che stanno nella testa del ricercatore, ma che si fondano sul dialogo tra il campo di ricerca e il ricercatore. Fare etnografia vuol dire fondamentalmente rispondere a questa semplicissima domanda: cosa avviene qui e ora e come? E come diventa fondamentale? Perché io posso ricevere uno studente che viene a chiedermi la tesi, posso fargli delle domande, ma posso fare nel frattempo che scrivo al computer, mentre rispondo al telefono, mentre penso ai fatti miei, o posso dare del tempo all'altro, guardarlo negli occhi, ascoltare cosa succede in me mentre ascolto lui, e il come avviene l'interazione che fa la differenza, non soltanto il che cosa avviene. Il professore ascolta lo studente che deve fare la tesi, che sta chiedendo la tesi, no, è il come che fa la differenza. Come dico ai miei studenti, miei tra virgolette, gli studenti che seguono il mio corso nella magistrale, per cercare di passare questo stile di fare ricerca, dovete immaginare che attraverso il vostro stare nella situazione, e devo precisare questo, alla fine io che non sono stato in quella situazione possa scrivere la sceneggiatura di un film di tipo neorealista in modo da poter dare ai miei attori le indicazioni su come riprodurre quella scena. Per cui devo dire al mio attore che se devi riprodurre Salvatore Lamedova, devi farlo uno con i capelli un po' spampinati, che si agita con il corpo e che gesticola, che fa delle pause, eccetera, eccetera, eccetera. Che è diverso rispetto allo stile molto più composto di Italo De Sangre, che è un professore serio, non uno caonesto come me, eccetera. No, come fai a riprodurre il come che dice la differenza tra un professore serio e un professore caonesto? E il come? E il come che fa la differenza? E non soltanto il se una cosa avviene o non avviene. Il focus di questa attività di tipo conoscitivo è intorno al tema della comunicazione, che per come la intendiamo noi, comunicazione è un equivalente di interazione, perché a differenza di altre prospettive teoriche, legittime, doverose, importanti, cioè, traduciamo comunicazione come azione comune, quindi la comunicazione è soltanto un'azione in comune, non ha tutto il fronte teorico problematico. Questo altro, e non il mio per un'altra volta. Ma al centro di questa cornice, al centro c'è il tema del consenso, lo scrivo volutamente non perché non avevo spazio, consenso, perché la questione che all'interno del consenso c'è la questione del senso, e vorrei poi più avanti dire due paroline intorno a questa questione senso. Già il Toro del Santo stamattina ha detto delle cose estremamente rilevanti, le voglio prendere un pochino sviluppate. Allora, oggi io vi parlerò prevalentemente della ricerca conoscitiva, non dell'altra parte, che è la parte di ricercazione di cui accenderò soltanto. Come farò, vi presenterò alcune scene emblematiche che abbiamo desunto da una serie di materiali che abbiamo raccolto nel periodo in cui abbiamo fatto la ricerca, quindi descriverò delle situazioni, cercherò di analizzare che cosa è avvenuto lì e il come, e poi utilizzerò delle metafore, cioè delle immagini. Le metafore tradizionalmente è più facile pensare che sono appannaggio dei poeti. Pensate al film, all'ultimo film di Troisi, Il Postino, l'attore che interpreta Neruda nel film dice: devi costruire metafore. E poi la madre, se qualcuno si ricorda il film, della ragazza che lui, la cucinotta, che Troisi cerca di sedurre, la madre tutta scandalizzata: metafore, cosa saranno queste metafore? Allora, tradizionalmente le metafore sono usate nella poesia, ma in realtà non soltanto nella poesia. Gregorio di Berzio ha scritto delle cose estremamente fondamentali sull'uso delle metafore. Ma nell'analisi organizzativa, e la nostra per alcuni versi è un'analisi tipo organizzativa, nelle analisi organizzative l'uso delle metafore è un classico. Pensate all'idea di pensare all'organizzazione o come una macchina, i ingranaggi devono essere perfettamente regolati, avviati, ognuno deve fare la propria funzione, o pensate all'altra metafora classica per parlare delle organizzazioni, che è pensare all'organizzazione come a un organismo, come un corpo umano, per esempio. Se qualcuno si ricorda qualcosina della storia delle elementari, quella storia di Menenio Agrippa sulle le membra, lo sciopero, quella roba. Quindi io utilizzerò alcune immagini, alcune metafore. La questione del consenso, dal nostro punto di vista, il consenso è soltanto un foruncolo, che permette l'uso di questa immagine, è un piccolo particolare che avviene, è un momento di contatto che avviene tra gli operatori della cura e una serie di figure, pazienti, parenti, badanti, le cerchie relazionali, le cerchie relazionali di chi è lì venuto in ospedale per chiedere un servizio. È un momento di contatto, ma se noi vogliamo mettere a fuoco questo piccolo momento di contatto dal nostro punto di vista, dobbiamo in realtà avere presente che quella parte lì, cioè il momento del contatto relativo al consenso, è soltanto la punta dell'iceberg, cioè una porzione minimale di tutto ciò che, di tutto ciò che avviene nel reparto. Voi sapete che l'iceberg emerge dall'acqua per un settimo del suo volume, 6 settimi stanno sotto. Quindi se noi vogliamo capire che cosa avviene nell'un settimo, in realtà dobbiamo tenere presente, fortemente presente, perché vale per 6 settimi, ciò che avviene al di sotto del livello dell'acqua. Perché noi stiamo immaginando che è fondamentale assumere che ciò che avviene sopra è l'effetto di ciò che avviene sotto, perché ci muoviamo sull'assunto dell'isomorfismo. All'interno di questi 6 settimi che sono sotto l'acqua agiscono 4 tribù principali, le chiamiamo tribù, visto che l'etnografia nasce nell'ambito dell'antropologia, poi in transita in varie altre discipline, ma insomma le tribù, l'antropologia nasceva, il metodo etnografico nasceva da studiare culture altre, distanti da noi, appunto culture tribali, che non hanno una connotazione negativa. Abbiamo quindi una serie di tribù principali, le 4 tribù principali che vedete raffigurate, e in ciascuna tribù avvengono delle interazioni intratribali e avvengono tra queste tribù delle interazioni intertribali. E allora bisogna osservare queste, perché è da questo che noi possiamo poi capire come si interagisce con il paziente e le sue cerchie relazionali. Ma in realtà nei reparti non ci sono solo queste 4 tribù, ce n'è un'altra pletora, i dirigenti, direttori, coordinatori, consulenti, il pronto soccorso, anche se magari non è fisicamente presente, ma è in qualche maniera evocato, non sempre benevolmente, come ben sapete, gli studenti che circolano, tante altre figure, ovviamente la direzione aziendale, che magari non è presente fisicamente, ma che, a cui arrivano tutta una serie di riferimenti a volte invisibili. E poi esistono altre figure che possono comparire direttamente sulla scena, che vengono orientate di come esprimere il di base. Qualche volta capita che il comitato di base che segue il proprio paziente venga e parli con il medico curante dell'ospedale, oppure gli si telefona, eccetera, eccetera, eccetera. Il volontariato è ovviamente un'altra cerchia fondamentale sulla scena. Quindi il nostro lavoro di tipo conoscitivo ha cercato di tenere conto di tutto ciò che avviene nell'interazione da questo popò di persone, popò di attori sociali. Quello che noi costruiamo sono delle rappresentazioni di rappresentazioni, il concetto classico dell'antropologia. Clifford Geertz è un autore classico dell'antropologia. Cioè noi cosa facciamo? Costruiamo quella che è la nostra fotografia, dal nostro punto di vista di etnografi, sulla base di cosa? Delle rappresentazioni a cui assistiamo. Perché noi cosa facciamo facendo etnografia? Viviamo con le persone che operano e che vivono nella loro vita quotidiana. Cioè noi 8 persone siamo stati ospiti di 3 reparti, come vedremo poi, partecipando alla loro vita quotidiana, stando di notte, mangiando magari a mezzanotte gli spaghetti con loro, partecipando solo osservativamente a una serie di attività per noi assolutamente inusuali, perché nessuna persona che non appartenga al corpo sanitario assiste mai a quelle pratiche a cui voi siete abituati quotidianamente, perché se assisti a quelle pratiche è perché sei l'oggetto di quella pratica, e uso volutamente il termine oggetto, perché se anche sei un parente, prego, si accomodi. No? Quindi noi abbiamo avuto il privilegio, se così si può chiamare, e l'onere soprattutto, ovviamente è stata una ricerca per noi molto faticosa, che dice ovviamente della fatica che voi fate quotidianamente con il vostro lavoro, è stato molto faticoso assistere a tutta una serie di azioni per noi assolutamente inusuali. E quindi noi che cosa facciamo? Costruiamo la nostra rappresentazione di etnografi a partire da cosa? Dalla rappresentazione che voi fate nella vostra vita quotidiana, perché voi rappresentate dei ruoli nella scena della vita quotidiana, e poi nel momento in cui raccontate qualcosa state rappresentando dal vostro punto di vista quello che avviene lì. Ah, sapessi stamattina cosa è successo, quella del 15 ha dato l'estandescenza, dovevi essere qui, perché poi allora sentire è una rappresentazione che viene fatta. Allora, quali rappresentazioni abbiamo raccolto? Le interazioni a cui abbiamo assistito, sono già 5 minuti, sono lì. Le narrazioni proposte durante lo stare in situazione, appunto, tipo quelle cose verbalmente che ci vengono, le interazioni. E la cosa più importante nel momento in cui si dà vita a una ricerca etnografica è riuscire a generare fiducia con le persone che ti ospitano. Perché nei primi giorni, le prime settimane, l'espressione tipica è darsi che se l'aspira. Poi da task che si è la spia, invece diventare il consulente, lo sfogatoio, questa roba qui scrivila perché devono vederla, Quindi assisti alle interazioni, le porti a casa, le registri, no? Ti prendi gli appunti e poi lo devi descrivere appunto come se poi dovessi scrivere la sceneggiatura di un film per dare indicazioni degli attori. E durante l'interazione le persone ti raccontano delle cose, te le raccontano. Quindi le prime sono fatte con i corpi, lavorando, vivendo la propria vita quotidiana, le seconde sono fatte verbalmente, come confidenti, oppure perché senti le persone che mentre operano, lavorano. Siamo stati per più di 5 mesi nei 3 reparti di cui parleremo poi, più di 5 mesi, 8 persone. Secondo gruppo di rappresentazioni sono quelle narrate durante un rituale particolare che siamo abituati a chiamare interviste, che sono delle interviste, è un rituale decisamente diverso rispetto alle interviste a quelle a cui siamo abituati tradizionalmente, quelle di tipo giornalistico da un lato, o quelle con questionario o con test dall'altro, cioè che hanno delle domande predefinite e delle risposte predefinite dalle quali scegliere. No, queste sono di tipo narrativo, dialogiche nello specifico. Sono interviste individuali e abbiamo intervistato praticamente tutte le persone, credo, se non ricordo male, una persona si è rifiutata di essere intervistata, tutte le persone che lavorano nei tre reparti. Quindi abbiamo 190 interviste per un bar pari a 300 ore di interviste. Potete immaginare che non ha voluto dire anche trascrivere tutte queste cose. Ma noi, che sono tutti audio registrati per scrivere, ma noi non ci siamo accontentati di questo, abbiamo dato vita a un'altra fonte di tipica, un intento conoscitivo di cui parlo ora, ma anche poi a un intento di tipo formativo, che lo vediamo dopo. Diciamo delle specie di giochi di ruolo, il role play, no? si usa perché è più figo quello in inglese, figo termine scientifico ovviamente. Noi le chiamiamo rappresentazioni dialogiche per la specificità del modo con il quale abbiamo proposto, dello stile che abbiamo adottato prima, durante e dopo. Diciamo così, che con le interviste abbiamo la rappresentazione di ciò che avviene dal punto di vista delle persone verbalmente. Con le rappresentazioni dialogiche invece abbiamo chiesto alle persone di rappresentarci delle scene della loro vita quotidiana agendole anche con il corpo, e i corpi parlano, solo che noi non sappiamo un fico secco di come parlano i nostri corpi. L'esempio che faccio sempre è questo: ricordatevi la vostra, la prima volta in cui vi siete visti in una videoregistrazione, è la prima volta che avete sentito la vostra voce registrata. Ecco, le facce che state facendo sono emblematiche, cioè fa lo schifo e l'odio. E immediatamente chiedete al vostro vicino: ma io sono così, era sì. Ma perché non hai detto che io faccio quelle smorfie lì che parlo così? Ma tu sei così? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo studiato un fracasso di libri, noi professori universitari, e non sappiamo però le cose fondamentali. Chi siamo noi nella situazione? Chi siamo noi nell'interazione? E la cosa buffa è che lo sanno tutti gli altri, gli unici che non sapevano siamo noi, perché gli altri dicono: ma sei così? E noi non lo sappiamo. Ci metto anche il carico da 11, non solo noi non lo sappiamo, ci facciamo schifo quando lo percepiamo, non ridiamo, siamo disgustati, e gli altri invece ci accettano, magari ci amano pure. Ma chi amano questi? Che personaggi orribili ti ama? Questo che fa queste smorfie è E allora, da questo punto di vista, c'è veramente tutto un lavoro da fare. Chi sono io nelle situazioni? Lavorare sulle rappresentazioni vuol dire non solo portare a casa questo tipo di materiali, ma lavorare a fare dei lavori, dei giochini e degli esercizi. Un iniziale giochino e esercizio. Abbiamo avuto qui 250 ore audio e video registrate. Vado velocissimo. Tre unità: clinica medica prima, gastroenterologia, reumatologia. 8 ricercatori, 2 ricercatori per ciascun reparto, clinica Guzzati, Giulia Sfera, clinica medica prima, Chiara D'Ambros e Mauro Ferrari, gastroenterologia. Questi due fanno due attori, non so se si vede. Fanno anche gli attori: Alessandro Carraro e Valentina Rettore a reumatologia, e poi due disgraziati, Marta Pozza e Sanatore Lavendola, che facevano i giorni. Ho preferito mettere il bagatto o matto perché corrisponde di più ai due personaggi. Dicevo, era una ricercazione, in realtà si era di una ricerca formazione, adottando lo stile dialogico, lo diceva già stamattina Paolo Vincellini, citandomi, grazie. Non si insegna a comunicare, né si prescrive cosa si deve fare, né si proscrive ciò che non si deve fare. Perché in principio, fatta una legge, trovato l'inganno, aggira qualunque azione di insegnamento. Si tratta invece di accompagnare ogni persona, ogni operatore della cura, nel caso specifico, a divenire consapevole, cioè a accorgersi. La parolina magica, l'abracadabra di questo percorso è accorgersi. Accorgersi di come ciascuna e ciascuno partecipa a costruire le forme di comunicazione. E quindi assumersene la responsabilità. Non ti insegno come si fa, non ti prescrivo come si fa, non ti proscrivo, non ti vieto di fare in un certo modo, ma della serie: guardati, guarda cosa fai, decidi, vuoi continuare a fare così, accomodati, sappi anche che tutti gli altri che lavorano con te sanno. Ricerca, formazione tramite le rappresentazioni dialogiche, che sono particolari giochi di ruolo, una prima fase che è stata di tipo intratribale, cioè mi ha fatto lavorare infermieri con infermieri, operatori sociosanitari, non operatori sociosanitari, medici specializzati, medici specializzati, medici strutturati, medici strutturati, e una seconda fase intertribale. Di questo non parlerò, ne ho parlato soltanto a un convegno a New York quest'estate, ne parleremo un'altra volta, se ci sarà mai tempo. Diciamo, l'unica cosa che dico è che è l'inizio di un possibile, anch'io uso la parola inglese, di un percorso di team building, lo traduco, di costruzione del nome. Costruzione del nome. Però c'è costruzione del nome e costruzione del nome. Allora, bene, detto la parte metodologica, sono già quanti minuti? No, no, bene, allora adesso entriamo. Perfetto. Entriamo nella ciccia. Qual è il senso comune di cosa si intende per comunicazione nei reparti? Io credo che questa scena emblematica a cui abbiamo assistito, a cui io personalmente ho assistito verso la fine dell'etnografia, quando questo è detto, top. Avevamo già un sacco di materiale, ma questo. Cosa si intende per comunicazione nei reparti? In un reparto, di cui ho fatto il nome, c'era in corso un processo di trasformazione organizzativa piuttosto consistente. E allora viene fatto una riunione. Già subito, ridete, ma cosa pensate? Viene fatto, con brevità, come vedete, tra i quali. C'è una ristrutturazione in corso, viene fatta una riunione tra medici strutturati, che saranno in qualche maniera, coordineranno questa nuova iniziativa, e specializzati, e dibattito, a un certo punto uno specializzando interviene e dice ma questo comporterà un aggravio del nostro lavoro. Certo, sarebbe bello se gli infermieri potessero fare alcune delle cose che facciamo tradizionalmente noi. Poi si scatena tutto il dibattito, figuriamoci che gli infermieri e un medico strutturato di quello che coordinava se esce con questa frase. Beh, possiamo chiedere alla vendola, che ormai ci conosce bene, come comunicare agli infermieri questo fatto? Lungo e giornalmente. A quel punto devo dire, il mio narciso è stato un affiato, no? Cioè, se questo è il riconoscimento per la ricerca, vuol dire che abbiamo fatto bingo. Però ho spostato il vaso di Narciso, lo prendo come un aspetto conoscitivo e mi dice, ma è questa l'idea di comunicazione? Se l'hanno fatto dentro quella linea lì, la fanno è solo occasionale in quella linea lì, o invece questo è il modello, è il senso comune, il dato per scontato con cui si interagisce, cioè, perché l'ho visto i vostri fumetti perversi, perché avete pensato tutti di sostituire la parola guento con un altro termine. Qualcuno ha coraggio di dirlo? Sì, qualcun altro usa il termine vaselina. Allora dobbiamo vedere, guardiamo un po' alcune scene, non possiamo vederle tutte, ovviamente, con tutto questo materiale vi potrei tenere qui per i prossimi 6 mesi, ci vuole più tempo a raccontare che a vivere. Mettiamo scena prima, anzi scena seconda se intendiamo quella, scena seconda, il giro visite, cosa avviene nel qui ed ora del giro visite e come? Quindi guardiamo alcuni elementi emblematici. Quando il gruppo può essere più o meno numeroso di persone entra a fare il giro visite, uno degli elementi fondamentali è che il gruppo di curanti costruisce una bolla in cui le persone parlano tra di loro e la persona che è sdraiata sul suo letto in qualche maniera viene escluso. Si parla di e si parla su, non si parla con. C'è una vista. E quali indicatori? Il volume della voce, adesso, e i codici utilizzati. È ovvio che un gruppo professionale, un centro professionale deve avere un proprio linguaggio, questo è inevitabile. I sociologi hanno un loro linguaggio, e se ogni volta dovessero forse usare una parola che sintetizza tutto il discorso, dovessero fare tutto il discorso, sarebbe delirio, quindi è ovvio. Il problema è che dove e quando io uso il codice sintetico e cosa significa in termini di comunicazione rispetto a questa persona che è di fronte. Scenetta. Guarda il video, sul letto c'era una paziente esperta. Paziente esperta è quella che ormai in qualche maniera pubblicizzata ha imparato una serie di cose, si documenta, legge, ha tutto un papiro di cose. Quindi, allora, è lì che ha un orecchio corale così per cercare di e a un certo punto dice no, mi sembra di aver capito, se non ho sentito male, che però mi sembra di aver letto su internet che in questi casi è il medico, guardate, non sto parlando male né dei medici né degli infermieri, non è questo, sono sicuro che se qualcuno riesce a fare etnografia sulle mie nefandezze troverebbe altri pochi, non è. È ovvio che se io volessi fare qualcosa di scandalistico, di giornalisticamente un apretto per quel materiale, ma questo è l'intento, che mi frega a me. Chiaro? E il medico, tra l'altro uno disponibile, attento, cioè, quindi chi sei? No, signora, non ci stia ad ascoltare, parliamo tra di noi. È chiaro? Non l'ha rimbata la cosa. Stava parlando di lei, ovviamente. È chiaro? Lo sguardo, sì, dovrei parlare del volume della voce, no? Perché il volume della voce, perché c'è l'altro aspetto del volume della voce con gli anziani. Perché è vero lei come sta? Soltanto perché devo dire che cadere i propri bianchi, però non è necessariamente, no? Ma c'è come dire l'uso di uno stereotipo. Lo sguardo. Come si sente oggi? Quante volte, no, vedi, pazienti si guardano, no, chi sta parlando? Lo sguardo è fondamentale, è un elemento fondamentale per dire, no, chi sto dirigendo la mia attenzione. Guardate, intorno a questo c'è un problema grossissimo, non è semplice risolvere, perché io potrei risolverlo dicendo, dovete guardare negli occhi le persone, prescrizione. Ma c'è, per esempio, tutta una questione interculturale che è grandissima, perché in altre culture guardare negli occhi è difficile. Quindi ognuno di questi punti, io me la sto spiegando un po' facendovi ridere, un po' dicendovi delle cose, ma ognuno di questi punti apre delle voragini sul quale si deve lavorare, si dovrebbe lavorare, e noi siamo, come dicevo prima, analfabeti, per comprendere. Ah beh, si deve fare le domande senza attendere risposte, cioè, fare un discorso, perché lei ha scaricato oggi, vero? Cioè, si prosegue col proprio discorso, vado molto sintetico. Questo lo sapete benissimo, no? Perché, come vedete, no, perché questa paziente, no? Ignuda con un verme, con 10 specializzati intorno, no? Oppure domande retoriche. Lei non ha problemi, vero, se facciamo vedere agli studenti il suo seno, vero? È una domanda questa. E poi c'è la questione del corridoio. Perché si va a parlare in corridoio per evitare che il paziente senta, no? Ci troviamo una privacy, no? Un corridoio. Oppure parlo con i parenti, dove? Il corridoio, no? Il posto più tranquillo del corridoio, di... non ce n'è. Guardate, sono io ironico, faccio battute, no? Non sono cose semplici da risolvere. Ognuna di queste cose qui comporta immaginare una vita quotidiana e degli artefatti organizzativi, come dicono gli organizzativisti, l'estetica di cui parla. La cosa è stata più chiosa, si è presentata la mattina, c'è l'aspetto estetico, ha ha nessuna rilevanza, cioè come sono fatti gli scazzi, no? Cioè, corridoio. Ah beh, questa è un'altra scena bellissima, la visita del tuo uomo, no? Perché io vado a parlare con Alessandro e dico Alessandro non c'è, ovviamente, no? Io faccio la visita del tuo uomo, cioè prendo in considerazione i parametri, ma non c'è, lei non c'è. E magari avvengono due scene normalmente. O questa persona torna e non gli si dice niente, era via e non gli si dice niente. Oppure ho visto fare dei, uso il termine scientifico, dei cazziatroni a chi non si sa perché regge, magari per questo dice, ma mi hanno andato a fare le analisi. La visita del tuo cuoco è bellissima. Allora, immagine un cono mobile, una piramide, no? C'è piramidale, un cono che ha un vertice, tutto intorno con i vari segmenti di cono, che possono esserci o non esserci. E qual è la caratteristica di questo monomobile? È che ha una bassa porosità, tende ad essere impermeabile. E quindi scivola via molto, se non tutto. È solo quello che avviene all'interno che arriverà. Allora, cerchiamo di guardare in anche l'interpretazione. Intendo che l'interpretazione è l'interpretazione che fa un attore. L'interpretazione non è soltanto l'attribuzione di un significato, è anche l'interpretazione che faccio con il mio corpo. L'attore interpreta in realtà. Dobbiamo partire dal fatto che noi, quando incontriamo, questo non vale soltanto negli ospedali per i reparti, riguarda la nostra vita quotidiana, qualunque ambiente della nostra vita quotidiana. Incontriamo senso, il senso che l'altro dà a che cosa? A quella situazione, alla sua vita, all'incontrarci. Senso, cioè quell'opera di tipo cognitivo in cui attribuisco un significato, ma non solo, perché la parola senso ci dice anche qualcos'altro, ci dice la pluralità di questi elementi, voglio mettere in luce almeno un'altra. Sta parlando dei sensi, quindi non è solo un'operazione cognitiva dell'emisfero sinistro del cervello. È un'operazione che avviene tra sensi, tra corpi. La polisensorialità dei corpi. Quelli sui quali noi siamo assolutamente ignoranti. Ignoriamo. Questo lo salto per semplicità, però voglio, allora andiamo a vedere, a centrare la scena terza. L'incontro tra matrici di senso. Io e Alessandro ci incontriamo qui, attribuiamo significato a questo incontro, ma oltre ad attribuire significato a questo incontro, sarà qui perché dobbiamo presentare questa ricerca, ma stiamo facendo incontrare i nostri sensi, i nostri corpi. Lui che mi guarda così, che fra un po' mi scrollerà per... E come lo fa? Io invado il suo spazio personale, Barbara prima si è spostata saggiamente perché altrimenti io la capisco che ho bisogno di spazio grande, no? Tutto questo è l'incontro tra i nostri sensi. Se io puzzo si sente, se io parlo forte si sente, è un incontro tra sensi. Allora l'incontro tra matrici di senso, cioè matrici vuol dire che sono, come dire, coloro che danno vita al senso. Possiamo interpretarle su un asse che va dalla asimmetria alla simmetria. Per chi invece è abituato al linguaggio della pragmatica della comunicazione, potremmo parlare di complementarietà e simmetria. Io preferisco parlare di asimmetria e simmetria, ma uso Goffman, giusto per dire, un autore di riferimento. C'è una simmetria dissonante e una simmetria consonante. Questo è lo schema di base. Nel momento in cui due persone si incontrano, un medico e un paziente si incontrano, si muovono su questo asse che va dalla asimmetria alla simmetria consonante. Asimmetria, diciamo, una persona posta gerarchicamente sopra e, no, sovraordinato, come si dice, è in una posizione asimmetrica rispetto a quello subordinato. Due persone che occupano la stessa posizione nella gerarchia sono in posizione simmetrica. E questo è il modo tradizionale di usare il termine simmetria, simmetria. A me non interessa cosa avviene nell'organigramma. A me interessano le situazioni. Per cui una persona che nell'organigramma è subordinato, in una certa situazione può in realtà andare a occupare una posizione sovraordinata. L'infermiere che manda a quel paese il medico strutturato sta occupando una posizione sovraordinata indipendentemente da dove è posizionato nell'organigramma. È chiaro? E questo che mi interessa. Nel qui e ora dell'interazione, chi va a occupare la posizione sovraordinata e chi va a occupare la posizione subordinata. Allora, nell'incontrarsi, nell'incontro, nell'interazione, c'è una via che si può percorrere, che è quella del dato per scontato. Ah, dottore, faccia lei. Do per scontato, non il consenso, perché in questo caso non è un consenso quello che viene generato. È una forma di assenso. Sembra che tutto vada bene nel momento in cui c'è assenso. Non è detto. Perché io posso dirti, ah dottore, faccia lei, ma avere nella mia testa, nel mio spirito, nel mio vecchio pensiero, mettetelo dove volete, in realtà tutta una serie di dubbi, di perplessità, che nel momento in cui poi quella cosa qui, a cui sembra che io abbia dato consenso, in realtà per alcuni versi va male. E non funziona come mi è stato raccontato, quello che era un assenso diventa una fonte di conflitto enorme, perché io mi sono fidato di te, mi sono affidato a te. Attenzione all'assenso, che sembra problematico. C'è una altra possibilità che è molto rara quando è incontro tra amici, è più facile da la corrispondenza di interpretazione. Quello che ci interessa di più è che nel momento in cui avvengono le divergenze, quando atterriamo sulla piazza del dissenso, c'è una via principale che tutti noi percorriamo, non solo quindi il campo sanitario, ma la nostra vita quotidiana, questo è un simbolo della nostra civiltà, è la via della dare vita alla persuasione usando il logos. La